Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Eccoci, 16:33 minuti, Luca Tremolada, Cristina Tagliabue, Nova Lab 24. Buongiorno. Oggi parliamo di mestieri che stanno cambiando, di creatività, quindi decliniamo i mestieri che stanno cambiando con la pubblicità, con la creatività, quindi l'ho già detto subito, parliamo di pubblicità. Di pubblicità e di pubblicitari, ma prima i consigli per gli acquisti, anzi i consigli per gli appuntamenti di Cristina Tagliabue. Da martedì fino al 30 maggio a Milano a Shaded View on Fashion Film, il primo fashion film festival internazionale ideato da Diane Pernet, giornalista e blogger. Shaded View è una rassegna itinerante che esplora le intersezioni tra moda e cinema, approdando per la prima volta a Milano dopo Parigi, Mexico City, Mosca, Tokyo e Seoul. Un vero e proprio film festival in cui sono protagonisti cortometraggi e documentari. Torna Young Blood 09, annual dei talenti italiani premiati nel mondo. È alla terza edizione e viene presentato proprio in questo momento all'interno di Roma, The Road to Contemporary Art. Si tratta di un'indagine sul nuovo corso della nostra industria culturale e sul rinnovamento del Made in Italy, una ricognizione tra le personalità destinate a creare movimento nell'industria e nella cultura. Creativi, artisti, testimonial delle capacità di un paese che ha bisogno di ritrovare nuove energie e nuovi stimoli per portare avanti le proprie visioni sul mercato internazionale. Tre giovani autrici per tre opere prime in una sfida tutta al femminile. Benedetta Tobagi, 33 anni, con Come mi batte forte il cuore. Silvia Avallone, 26, con Acciaio. E Gaia Raineri, 23, con Pulce non c'è. Sono le finaliste dell'undicesima edizione del premio Edoardo Kilgren, il concorso letterario inaugurato 10 anni fa a Milano, riservato a scrittori sotto i 35 anni al debutto con la loro prima opera. Suspense per stasera alle 21. Verrà proclamata la vincitrice. Grande successo di pubblico, ma poca programmazione nelle sale per Shadow, il film horror diretto da Federico Zampaglione. Per protesta rispetto alla poca attenzione all'interno della programmazione, il film è stato trasmesso in streaming su mymovies.it, gratuitamente, perché nelle sale solo dopo mezzanotte si può vedere. Allora, settimana particolare, particolarissima almeno per me, perché insomma stavo raccontando, mi sono ritrovato nel giro di pochi giorni davanti a una platea di notai e subito dopo, anzi qualche giorno dopo, a una platea di designer per dei convegni, insomma ricchi e poveri, ricchi e poveri, esatto. Però c'erano anche gli architetti, però insomma tutta gente che guadagna molto moltissimo, e la cosa particolare insomma che per entrambi c'era un'unica cosa che li associava, il notaio e il designer, che insomma sono convinti che il loro mestiere è destinato a cambiare irrimediabilmente. Per questo noi abbiamo anche avuto l'idea di portare dei pubblicitari, perché loro sono un altro mestiere destinato a cambiare senza se e senza ma. Perché sono i signori che stanno dietro ai messaggi pubblicitari, non sono soltanto cartelloni, non sono soltanto spot, ovviamente è da anni ormai anche tanta internet, e nonostante ci siano tantissimi tassisti che ho conosciuto che hanno lavorato come creativi, poi si sono licenziati perché tipicamente si lavora troppo facendo il mestiere della pubblicità, in realtà come dire, oggi rimane ancora uno dei lavori più desiderati. Si lavora troppo, dici? Ma adesso lo chiediamo ad Alex Brunori, direttore creativo esecutivo della MRM Worldwide Italia. Oddio, negli anni Ottanta eravate antipaticissimi, cioè negli anni Ottanta c'era questo mito, no, del pubblicitario un po' fighetto. Sì, ce la siamo cercata. Parlo per interposta persona, perché negli anni Ottanta non c'era a fare questo lavoro. I tuoi colleghi. Però da quando sono arrivato la parola creativo mi ha sempre dato un po' fastidio, infatti non è esattamente la prima cosa che preferisco si dica della mia professione, perché evoca un po' questo pubblicitario vestito di nero con l'occhialetto rettangolare che sorseggia il cocktail, che va sui set, che punta le modelle. E invece cosa fate, scusi? Lavoriamo molto, molto, molto duramente, e quindi capisco il collega tassista che si è... Con questa voce teatrale, la voce teatrale vera, molto bassa. La voce dipende dal fatto che dormo poco, mi basta per questo, e che canto, per cui è un po'... Quindi è poliedrico, cioè importante. Allora sentiamo, visto che ci hai tirato fuori una cosa che ci interessa, vediamo un po' la storia di Alex Brunori nella scheda di Cristina Dagliabue. Alex Brunori è direttore creativo esecutivo della MRM Worldwide Italy, una delle più importanti agenzie di comunicazione digital ed emerging media d'Italia, parte di McCann World Group. Socio e consigliere dell'associazione che raccoglie i migliori creativi italiani, ha fatto parte delle più importanti giurie internazionali dei premi di settore e il suo lavoro è stato riconosciuto e premiato in Italia e all'estero. Ha studiato regia alla Tisch School of the Arts nella New York University. Si interessa di arte contemporanea, live media, meditazione e musica. Allora, adesso questo siparietto, mentre stava andando in onda la scheda, Cristina Tagliabue diceva: sai che non dimostri meno di 40 anni. Poi mi ha guardato e ha detto: a differenza di Tremolada, che invece ne dimostra 80. Grazie a tutti e due. Ma perché a me piacciono i cinquantenni. Va bene. Allora, teniamo. Comunque, stiamo invece sulla palla, stiamo sul mestiere del pubblicitario. Insomma, domani esce l'iPad, se non sbaglio, che è sicuramente uno strumento su cui voi vi eserciterete parecchio. C'è un tema di interattività e c'è anche un tema di consigli degli acquisti che necessariamente, vuoi per la crisi, vuoi per i nuovi strumenti, i nuovi media, devono destinare a cambiare. Insomma, non è più facile, non ci potete più vendere la casalinga, la lavatrice, dovete inventarvi qualcosa di nuovo. Sì, devo dirti, lo stiamo già facendo, nel senso, tu parli del futuro della comunicazione e secondo me è già il presente abbondante, per cui noi in realtà esercitiamo ogni giorno questo. L'iPad abbiamo già quasi finito la prima applicazione, l'iPhone abbiamo già diverse, ed è uno strumento estremamente interessante, ma non solo perché sia uno strumento destinato secondo noi a rivoluzionare un po' anche il modo di vivere delle persone che lo acquisteranno, perché presenta linguaggi nuovi di interazione, quelli che noi chiamiamo engagement, molto molto molto importanti. Ecco Luca, per esempio io volevo segnalare, insomma, che abbiamo invitato Alex perché c'è stato il premio dell'ADC, no? Dell'Advertising Art Directors Club italiano, e che in realtà l'agenzia di Alex, anche se lui non vuole dire, ha vinto il miglior premio per corporate website con il sito campari.com, e mi stava spiegando prima che in realtà loro già lavorano con applicazioni per iPhone, tanto che lo scorso anno avevano fatto un'applicazione che permetteva di fare cocktail sul cellulare. Per Campari. Sì, è un'applicazione divertente, c'è un piccolo gioco per esercitarsi a fare un cocktail Campari, poi c'è una parte di ricette, video ricette, dove barman particolarmente bravi spiegano come si fanno perfettamente questi cocktail, e un locator dei bar Campari. Ecco, a me mi dovresti spiegare una cosa, nel senso, fino a un paio di anni fa la parola d'ordine era guerriglia, cioè la pubblicità che deve andare live, che deve, insomma, strattonare, diciamo, il consumatore mentre cammina per strada, perché ormai la televisione, sì, va bene, però non funziona più di tanto, perché bisogna cercare di arrivare sui nuovi media. Adesso sicuramente state anche lavorando sul mondo delle applicazioni, dell'interattività, però anche qui io credo che ci siano dei nodi da sciogliere. Cioè, il primo nodo è: raccontate bugie. Io la metto un po' semplice, però nella mia mente di ragazzino, no? La pubblicità è sempre stata quella cosa dove ti raccontano un po', cioè camuffano un po' la realtà, ti raccontano il prodotto, ti devono far sognare. Negli anni 80, che io li cito sempre, però insomma mi ricordo pubblicità dei jeans dove non c'erano i jeans, però solo dovevano trasmettere qualche cosa di emotivo. Non c'è oggi, perché non c'è il ritorno a una trasparenza, un fare la pubblicità che non è pubblicità, mi viene da dire, o è un'idea mia, tutta mia, me la porterò fino alla tomba? Mamma mia, mi hai fatto due o tre punti che interessantissimi, meriterebbero altro che approfondimenti. Se posso rispondere, secondo me no, non raccontiamo bugie, e non credo che tu diresti che la letteratura, il cinema, la televisione, i saggi raccontano bugie. No, qualsiasi cosa tu racconti ha un punto di vista, e la bugia presuppone la malafede. Nel nostro lavoro la malafede non ha posto. Dobbiamo aiutare i brand per i quali lavoriamo a essere i migliori a vendere, e non credo che raccontando bugie riusciresti a portarli molto lontano. Beh, però un po' esagerate, no? Dovete esagerare, stressare determinati punti, cioè Altrimenti no, un prodotto sarebbe uguale all'altro. Ma no, ha ragione anche la letteratura, esagera alle volte certe cose. Perché, cioè, la letteratura, quella vera, che fa documentario dal mio punto di vista, che dice la verità, e che la verità non è mai bella. E poi c'è invece la letteratura, quella che è infiocchetta, no? Che camuffa, che no, gioca, che tipo... sì, anche i quotidiani alle volte. Ma no, là, non entrare, non avventurarti. No, ma perché è interessante quella discussione. Cioè, qual è il limite che uno si deve porre nel far sognare? Secondo me, finché il gioco è chiaro, finché siamo onesti nella proposition, nel dire alle persone è pubblicità, non stiamo cercando di raccontare, di salvare le vite. Però la pubblicità deve anche saper informare, far sognare, emozionare, far ridere o far pensare, perché no? Ecco, io leggo che il miglior premio per Ambient e Unconventional Media Loro l'ha preso Heineken Italia. Auditorium, sì, un bellissimo lavoro, devo dire. Spiegami che cosa si tratta. È un esempio proprio di come sta cambiando il nostro mestiere. Tu hai detto prima, lo spot non funziona più. Qui ci sono, va raccontata questa cosa. La pubblicità, una volta, la pubblicità si nutre dei mezzi sui quali si appoggia, e non è il contrario. E quando escono fuori mezzi nuovi, escono fuori nuovi modi di fare comunicazione. Però va pensato quello che si vuole dire. Allora Heineken è un lavoro splendido, perché in realtà non è uno spot, non è una pagina stampa, non è un radio, non è un sito, è un'operazione che in genere si definisce unconventional, e sono quel tipo di operazioni che rappresenteranno sempre di più lo sviluppo della comunicazione dell'azienda. Nova Lab 24. È evidente che i pubblicitari mi hanno traviato, ho detto pubblicità invece era il traffico, perché bisogna stare attenti a quello che si dice e poi ti fanno cambiare idea. Abbiamo in collegamento Lorenzo Marini, buongiorno. Ciao ciao, buongiorno. Ciao, lanciamo subito la tua scheda così facciamo sapere a tutti chi sei e che cosa fai. Lorenzo Marini, presidente della Lorenzo Marini e Associati e animatore con Dario Vergassola della trasmissione di Radio 2 sulla creatività Il giorno della marmotta, pensa che la creatività sembra un concetto teorico, ma poi scopri che è molto pratico, come l'atto del cucinare. Più lo pratichi e meglio è. Della storia della pubblicità ha recentemente spiegato: negli anni 80 si mangiava rucola e si vendevano spigoli, ma comunque si celebravano i prodotti. Negli anni 90 sono arrivati gli yogurt, gli spigoli si sono arrotondati e si è iniziato a celebrare la marca. Oggi si parla di un nuovo re, il consumatore. Ma è proprio il consumatore che vorrebbe una pubblicità più leggera e divertente. È come se fossimo arrivati ad un'era del consumatore intelligente. Sarà vero? Giustamente Cristina Tagliabue si domanda, sarà vero? Lorenzo Marini. Non si sa mai, guarda, la pubblicità, stavamo dicendo prima che qualcuno poneva dei dubbi, è sincero o no? La pubblicità per sua natura è parziale. Come un diamante a molte facce, noi possiamo evidenziare alcuni aspetti, ma anche noi quando ci vestiamo in un modo elegante per andare a un matrimonio, poi cambiamo look per tagliare l'erba al giardino. Siamo sempre noi, ma in alcuni dei nostri aspetti. La pubblicità usa un linguaggio enfatico, tipico dei fidanzati, tipico degli innamorati, e di amore si parla quando si cerca di stabilire un rapporto emotivo con la marca. Ma la vita non è una luna di miele. Consentimelo. Cade tutto come latte, però quando tu dici alla tua amata le tue gambe sono le più belle del mondo, lei sa che è un linguaggio enfatico tipico degli innamorati, esattamente come il consumatore sa. E sa anche che non è vero, purtroppo. Che sia vero o no, sai, è sempre una visione percettiva individuale delle cose. Quando tu sei innamorato, quando tu hai gli occhiali, no, con le lenti gialle, anche la giornata di nebbia ti sembra più. Non so, Lorenzo, non so chi diceva che il relativismo culturale ha creato dei mostri. Un po' è vero, però, insomma, no, non vorrei sembrare marxista, però, insomma, una parola. Il valore di scambio è il valore d'uso delle cose. Marini, torniamo alla parte interattiva e alla parte di cambiamento del mestiere del pubblicitario. Insomma, abbiamo visto con Brunori che stanno sperimentando delle applicazioni, quindi stanno sperimentando una pubblicità che è per sua natura interattiva. Tu cosa ne pensi? Penso che da qualche anno non si chiama più il nostro lavoro semplice così pubblicità, ma si chiama comunicazione, perché all'aumento dei mezzi, una volta c'erano solo 5 mezzi principali, la televisione, la radio, il manifesto, la stampa, e adesso sono diventati frammentati, non c'è più un manifesto ma tante tipologie di esterna, non c'è più un sistema, per esempio, no, di comunicazione classica nel web, ma i social network, per esempio, hanno fatto trovare noi impreparati. La pubblicità compra tutto quello che gli sta vicino, i social network no, quindi deve ritornare al one to one, deve ritornare al passaparola, quindi cambia, no, il mondo attorno a noi, e dunque cambia il modo di comunicare, ma non i concetti di comunicazione. La pubblicità dice da 100 anni, più nuovo più vecchio, più grande più piccolo, più o meno le promesse sono quelle. Ecco, però... Prego. Però sul social network, poi lo chiedo a te, poi lo volevo anche capire con Brunori, questo gioco forse non funziona più, nel senso che i social network sono delle, abbiamo più volte detto, sono delle grandissime conversazioni, alle volte molto fitte, alle volte inaccessibili, Facebook, Twitter, insomma è difficile, è un po' come dar fastidio a due persone che stanno parlando fitto fitto. La televisione, bene o male, interrompete una storia, interrompete un programma, interrompete quantomeno un flusso di informazioni che parte da una direzione e va da un'altra. Sul social network interrompete un'interazione. Sì, difatti per quello bisogna fare anche attenzione, perché ci sono tante web agency che stanno facendo una sorta di infiltration, e lì è ancora più delicato, perché sai, il bello della pubblicità è che è dichiarata, tu vedi una pagina e a fianco trovi qualsiasi tipo di articolo che presuppone l'indipendenza del giornalista, e però sai che quella pagina è pagata da qualcuno, e quindi mi ricordo che quando facevo il direttore artistico della Biennale dell'Umorismo di Tolentino, un tema di un anno è stato la bugia, e secondo gli italiani i più bugiardi in graduatoria sono i politici, il secondo posto è dei giornalisti e il terzo dei pubblicitari. Quindi, come vedi, c'è più timore nell'articolo che leggi che non nella pubblicità. Difatti le prostitute erano al 10º posto, perché tanto non devono mentire. Beh, anche questo, come dire, no, mi permetto in quanto donna di dubitare. No, attacco briga subito io, poi do la parola a Brunori perché mi interessa assolutamente. Attenzione che il giornalista, soprattutto quello che scrive su un giornale o in un'azienda, si sa benissimo da chi è pagato, ed è pagato dal lettore e da un azionista che in un certo senso ne garantisce la dipendenza. Il pubblicitario ha una missione che in sé giustamente non può mentire, ma è già, diciamo, quella di non dico di camuffare la realtà, ma di lanciare un messaggio particolare. Facciamo mestieri diversi, su via, no? Sì, difatti noi siamo dei funamboli a metà strada tra la poesia e la mercanzia. Noi siamo pagati per vendere, noi riceviamo dei premi alla fine dell'anno se il cliente ha venduto tante, certo, birre, tanti callifughi, tanti antiforfora. Quindi noi in realtà siamo pieni, noi occidentali siamo pieni di necessità non necessarie, e che raccontiamo storie. In fondo, che cos'è una marca? Una marca è una storia. Noi raccontiamo storie diverse che cambiano in base a come cambia il consumatore. Brunori. Il prodotto è sempre quello. Brunori, anzi, scusa. Sì, sull'argomento dei social network è molto interessante, e capita che lo conosca molto bene, credo che lavoriamo tantissimo con Facebook per i nostri brand, e devo dire che cosa fate con Facebook? Ma per esempio abbiamo cose pratiche, proprio aggredite la gente, no, chiedete amicizia, sì, da una bastonata alle spalle, no, in realtà è molto semplice, nel senso, Facebook è un incontro tra persone ed è una conversazione. La pubblicità può dire delle cose intelligenti anche nell'ambito di una conversazione, e deve farlo, per cui è come tu partecipi alla conversazione, non se devi parteciparci o meno. Certo che se vai lì per cercare di vendere l'aspirapolvere non dicendo che puoi farlo, è normale che ti buttino fuori da qualsiasi circolo di conversazioni, ma se le regole del gioco sono chiare, se la marca ha da dire qualcosa di rilevante per le persone che stanno avendo quella conversazione, viene accettata né più né meno come chiunque altro ha da dire qualcosa di rilevante. Tra l'altro mi viene da dire, ma forse è un concetto troppo d'avanguardia, non lo so, che in realtà molte marche ormai sono centri di senso molto di più di tanti personaggi o addirittura giornali, informazione, cioè un marchio come la Diesel. Quanta gente ha che lo osanna, no? Ma guarda, io trovo che sia giusto, perché io adesso parlo, il mio parere è ovviamente di parte, io adoro alcuni brand. Ci sono dei brand che hanno imparato a giocare nella vita delle persone un ruolo che va molto al di là del vendergli un oggetto o un servizio. Io trovo che questi brand stiano sul mercato e fra la gente in un modo veramente straordinario. Io invece non sono d'accordo, però il tempo, come nella pubblicità, così nella vita, mi è tiranno, per cui dico solo no, non sono d'accordo, mi fermo solo qui, che è una trovata pubblicitaria, dire no senza motivarlo, lo motiverò in un altro momento. Diamo la pubblicità? No, ringrazio Tagliabue, ringrazio Brunori, ringrazio Marini, l'appuntamento è per domani alle 16.30, arrivederci. Nova Lab 24. Nova Lab 24.